Sabrina, la stanza del nonno, questa è Radio Centro Idea Digital Network, powered by Samarcanda. Siamo in DAB online e ci potete trovare in un sacco di posti ultimamente, anche dicendo a qualcuno: Giuseppa, mettimi Radio Centro Idea Digital Network, e magicamente la scatola che sta lì in casa vostra con voi, che vi serve, che strano sistema, vi farà ascoltare la radio che state ascoltando voi. Voi dove siete? Sul cellulare, sul computer, con delle casse stereofoniche? Il suono è buono di questa radio, eh? Enrico Di Troia al microfono con voi. Siamo stati insieme a Guido Bellachioma oggi per un programma specializzato, speciale, dedicato alla memoria del grande Francesco Di Giacomo. Adesso è giusto che in qualche modo ci stacchiamo dalla musica che abbiamo amato da ragazzi, piano piano ci distanziamo dalla musica di Francesco, restando però in argomento, e cioè restando con gli occhi tesi a guardarci intorno a cosa sta succedendo nel mondo. E quindi con un brano che di cui non vi dico nulla, di sicuro capterete delle curiose atmosfere, e il brano vi saprà dire qualcosa di più di quello che posso dirvi io. La musica viene da molto lontano, ma neanche troppo lontano, e allora a un certo punto è successo che la linea con questa musica si è leggermente abbassata. Fairuz. Attorno alla Palestina, non proprio palestinese, ma forse di origine palestinese, io ero curioso di sentire della musica che provenga da lì. Mi rendo conto che sono partito un po' a gamba tesa, senza prepararvi, e soprattutto senza preparare un tipo di musica completamente diversa da quella che produceva la sigla. E vabbè, concedetemi ogni tanto qualche scivolone tecnico, dal punto di vista tecnico, ma Nassam Alaya El Hawa, lei di origine palestinese, probabilmente libanese. Sembra che sia una cantante ormai di una certa età. E sarebbe interessante farsi raccontare i testi. A volte parlano soltanto d'amore, a volte parlano anche del paese. Ma un brano che mi avevano fatto ascoltare per farmi un po' entrare nell'atmosfera di questa musica era questo brano che si chiama Sanarju, chissà se lo dico bene. Fairuz, dalla stanza del nonno, musica che parla di Palestina. Dedicata a tutti coloro che si sintonizzano più o meno per caso su Radio Centro Idea e ritrovano un frammento della propria lingua, del proprio paese. Thank you. famosissima cantante di tanti anni fa, che si chiama Fairuz. Chissà se la pronuncia è giusta, di sicuro no. E il brano, molto nostalgico verso il proprio paese, si chiama Sanariju. غدا تلتقينا على منحنى سنرجع خبره العندليب غدا تلتقينا على منحنى بأن البلاء بلا لما تزل هناك تعيش بأشعارنا وما زال بين تلال الحنين وناس الحنين مكان لنا فيا قلب كم شردتنا رياح تعال سنرجع هيا بنا A giudicare dal tipo di musica mi viene in mente che queste popolazioni fossero un tempo molto meno attanagliate dalle rigidità religiose. Oh donna, neninjaravide che la la, oh donna. L'abbiamo sentita a Roma qualche tempo fa, grazie al Roma Europa Festival, una serata in cui ebbe dei seri problemi tecnici poi risolti a metà serata. Fatouma da Diawara. Diavora, che poi fatomata diavora o fatomata diavora, boh. Sì, l'ho detto bene tutte e due volte, non è che te stai adesso stai a rompere le scatole. Torniamo un attimo in Occidente. Blackbird singing in the dead of night, take these broken wings and learn to fly all your life. You were only waiting for this moment to arise. Blackbird singing in the dead of night, take these sunken eyes and learn to see all your life. You are only waiting for this moment to be free. Blackbird fly, blackbird fly, into the line of a dark black. Su questo brano non si può dire proprio nulla, nulla, ascoltarlo e basta. Credo che l'uccellino sia diventato famoso, non so dove si possa ascoltare, in qualche radio, ma vogliamo mettere un vinile? Proprio un disco di vinile? Adesso preparo la puntina, eh? Allora attenzione, dovrebbe andare bene così, vediamo un po'. Oh, siete nella stanza del nonno, abbiamo lasciato il disco di vinile gironzolare nella parte finale della puntina. Era una orchestra belga che si chiamava di Francis Bay, era il direttore d'orchestra, e facevano un pezzo tratto dalle composizioni di un grande musicista che si chiamava Duke Ellington. E noi adesso passiamo a tutto un altro sound, The Smiths. That somebody loved me. L'altra notte ho sognato che qualcuno mi amava. Just another false love. Last night I felt real arms around me. No hope, no harm, just another false alarm. So tell me how long. Smiths, oggi è uno strano programma, non prende ancora il volo perché siamo ancora intrisi nell'atmosfera che abbiamo costruito prima insieme a Guido Bellachioma, e allora ci vuole uno stacco completo. Voi sapete che a me piace molto il jazz, però ogni tanto mi imbatto anche in qualcosa di musica classica che mi fa impazzire, e uno di questi è uno strambo Gioacchino Rossini che sembra un po' Mozart. Thank you. Avete ascoltato di Gioachino Rossini Allegro. Adesso Allegro Spiritoso. Beh. Allegro ma spiritoso. Ma forse qui. No, no. Siete all'ascolto della stanza del nonno. Enrico Di Troia al microfono con voi. Alla ricerca del mood giusto. A volte sfugge, Invece questo qui dovrebbe riuscire a riportarmi su un binario musicale. Ecco che qualcosa sta tornando. Keith Jarrett, Gary Peacock e Jack DeJohnette. Non li sentiremo mai più suonare dal vivo, però possiamo sentire dei dischi stupendi che hanno inciso suonando dal vivo. E questo è uno dei primi che mi ha catturato. Dalla stanza del nonno, Gary Peacock al basso, Jack DeJohnette alla batteria e Keith Jarrett al piano. The song is you. Thank you. The Song Is You. Gary Peacock al basso, Jack DeJohnette alla batteria. La particolarità di questo tipo di sound, di questo tipo di trio, è la concentrazione che ci mettono quando suonano insieme. Si guardano e si sentono l'uno con l'altro e finiscono come in una specie di trance. È quasi una musica che va al di là. Infatti spesso e volentieri, quando ho visto qualche concerto, ho dovuto chiudere gli occhi per cogliere tutti gli accenti, tutti i discorsi, per captarli e capirli e prenderli al volo. Ben arrivati all'ascolto di Radio Centro Idea. Questo è la stanza del nonno. Abbiamo quasi tre quarti d'ora per capire qual è il filo magico di questa sera, che ancora tarda a venire, ma attraverso la musica di Gioacchino Rossini, suonata da un ensemble straordinario. Subito ci ha rimesso un attimo in onda sulle idee musicali. Come diceva Keith Jarrett, io non posso suonare a lungo, fare mille bis, perché la musica è come lo stomaco, è troppa musica, poi distrugge tutto quello che hai goduto prima. Lo disse in un concerto dal vivo al Campidoglio di Roma, dove era da solo col suo pianoforte, e a un certo punto passò una sirena e lui tranquillamente non gli diede fastidio quello, sì, le macchine fotografiche sì, quello invece in qualche modo è una cosa che avviene. Ha preso la palla al balzo per costruirci sopra qualcosa e continuare il suo discorso. Altissima concentrazione, li sentite? Il brano è molto lungo. Io ho ancora tanta musica da mandare, ma è un brano che vi consiglio di ascoltare da soli a casa, senza qualcuno che ci parla sopra, naturalmente, e senza fare altro, come si diceva prima. Quando ascolto musica e basta. Jarrett, Peacock, DeJohnette, The Song Is You, e adesso un altro gruppetto interessante. Un altro modo di concepire la musica. Randy Brecker alla tromba, Bob Berg al sax, con un bellissimo gruppo. Thank you. Bob Berg, Joy Di Francesco, Randy Brecker. E il chitarrista chi è? Mannaggia, mi sono dimenticato. Non mi sembra Joe Scofield? Francesco, grande hammondista. Allora, vi confesso che ho scoperto come trovare i vostri messaggi quando ci arrivano, perché io davo un numero, però poi dico dove li trovo i messaggi? Ho scoperto dove sono. Meglio tardi che mai. Quindi, potete mandare messaggi al 3791 880 880 e magicamente probabile che io, verso la fine del programma, quando avrò le mani libere, possa rispondervi. Ma intanto posso leggervi. Non è poco. Questa è la stanza del nonno. Siamo a Radio Centro Idea Digital Network, stanza del nonno, siamo in DAB, siamo online. E adesso un personaggio piuttosto interessante che ho visto dal vivo qualche tempo fa. Gary Clark Jr. I'm Missing Around. Radio Centro Idea. Buon ascolto a tutti. Spero. panico che si scatena, Jerry Clark. Gary è proprio così, prende la chitarra e comincia a parlare in un modo potente con lo strumento. Uno dei singoli più interessanti di una certa epoca erano i Clash con Janis Jones. E cosa succede? Perché sei sparito? Torna qui. Dove sei? È sparito qualcosa. Beh, aspettate qualche attimo, cercherò di farlo ritornare. Allora. Al nostro mix non è piaciuto il disco che ho messo prima. Mi ha completamente tagliato le gambe. È sparito tutto. Proprio si arrabbia se io metto della musica che tutti possono ascoltare dovunque. Cioè, devo mettere per forza della musica particolare? Va bene, d'accordo. Farò del mio meglio. Per esempio, immagino che questo disco non vi è mai capitato di ascoltarlo. È di un personaggio che purtroppo, come tanti, ci sta guardando da lassù. Floating Points, Farrah Sanders, con la London Symphony Orchestra. Ogni tanto è un bene, le macchine si rivoltano a colui che le utilizza e a me fa piacere, insomma. Poi in qualche modo ho capito che tutto funzionava, ma ero io soltanto che non sentivo bene le cose. E allora continuiamo a fare ancora, in questi ultimi minuti che siamo assieme, un po' di scoperte. Io sto leggendo un libro che si chiama, sto rileggendo con degli amici, con dei ragazzi, Nick Hornby, Alta Fedeltà. E qui vengono nominati vari brani, varie cosette che il protagonista del libro mandava in onda, no? E uno di questi era proprio questo brano. Smokey Robinson. It's a good feeling. Siete in compagnia di Edic, questa è Radio Centro Idea. Abbiamo un numero per raggiungerci, che è 3791-880-880. Siamo in DAB, degli amici mandano le foto della propria radio in automobile per dirci che ci hanno captato. Io mi chiedo sempre, sarò stato all'altezza della vostra radio oggi? Un po' confuso direi, no? Forse un po' stanco, perché insomma 5 ore di radio sono un po' pesanti. Però, beh, nel senso che la testa va in fumo. Allora, questo per aprire le danze, per questi ultimi minuti della stanza del nonno. Smokey Robinson. C'era una good feeling, spero che questo feeling good sia stato good anche per voi. Che è? Che è successo? Ah, siete voi. Ok, Bobby Blue Band. No blow, no show. My baby, all I could do was cry. Whoa. and blow. Oh, the train passed by, the whistle didn't even blow. Well, I was looking for my baby, and she didn't even show. No blow, no show. A Radio Centro Idea, nella stanza del nonno, una signorina? Sì? Dica. Oh yeah! Ah, oh yeah, lo dice lei. Vabbè, lei è Jean Knight. Mr. Big Stuff. Mr. Big Stuff. Who do you think you are? Big Stuff. Mr. Big Stuff. You're never gonna get my love. Avevo bisogno di tirarmi su, di ballare un po', infatti mi sono alzato in piedi. Perché se la prende con me, no? No, non mi credo di essere nessuno in particolare. Sono un po' stanco oggi pomeriggio, ma non è che ho fatto... Lo... Sì, va bene, ok. Sono in chiusura. Devo chiudere il programma perché è stato un po' lungo quello prima e allora io mi sono un po' stancato. Diciamo che lo staff è grande qui perché... Non è quello che lei vuole intendere? Poi si capisce che io no, non mi credo di essere nessuno, poi si capisce che non conosco bene l'inglese, capisco fischio per fiasco, no, va bene, ok. No, ragazzi, qui sono entrati addirittura in cinque a cantare, ballano, buoni. The Love You Save, The Jackson 5. E quello più piccolo è Michael. Sì, sì, lui, Michael Jackson, quello che sentite cantare. Suggerimenti musicali dati da questo libro che sto riaprendo dopo tanti anni, che si chiama Alta Fedeltà, di Nick Hornby. Che fai? Che fai? Che fai? Non fare così! Non fare così! E va bene. Quando si stanca di una canzone non c'è niente da fare. Uffa! Questa ti piace? Sì? Ah. È un po' lunga però, cioè, se mai l'accorciamo dopo. Vabbè. Ma chi è? Danny Hathaway, The Ghetto. Sì, il ghetto, The Ghetto. Un brano straordinario. Danny Hathaway, un brano straordinario, un brano pazzesco, impossibile da togliere, impossibile non ballare su questa musica, impossibile non chiudere gli occhi e, o almeno aprirli trovando qualcuno davanti che balla con te. Una musica che unisce, una musica che fa sorridere, una musica che... Chissà se improvvisamente comparisse una musica del genere di fronte a due eserciti, improvvisamente passa qualcuno con un camion che non dovrebbero bombardare possibilmente e manda questa musica a tutto volume. Questa, come tante altre, potrebbe scegliere anche qualcosa di diverso, ma qualcosa che faccia sparire da tutte quelle persone che stanno lì l'idea di essere o di uccidere. il desiderio di tutti i DJ, no? Mettere della musica che porti pace, serenità. Siamo alle ultime battute. Ancora pochi minuti. È un signore che conosciamo molto bene e che ci piace molto come suona. A dire la verità potrebbe essere anche la sigla di questa stanza del nonno di questa sera. E io quasi quasi la utilizzo per chiudere, per salutarvi, per ringraziarvi di essere stati con noi, con me, con Guido Bellachioma nella prima parte. Io sono stato qui con lui un po' in regia, un po' anche per ascoltare delle cose che non avevo mai ascoltato, che lui ha portato. Una trasmissione dedicata completamente a Francesco Di Giacomo, artista e persona che amiamo. Io vi saluto, noi ci vediamo domani, anzi ci sentiamo domani, perché per fortuna qui non ci sono telecamere. Oh. Yeah. Straordinaria musica. Ecco, la radio mi piace che sia sempre così viva. Che accenda curiosità, che non porti mai un momento di noia. Che sì, se c'è una cosa che magari non vi piace, però restate qui con noi, in questo caso con me. Sono Edith, Enrico Di Troia al microfono con voi, Radio Centro Idea. Siamo in DAB, siamo online, siamo abbastanza vicini a voi, se volete. Anche la notte c'è un bellissimo programma di musica elettronica mai sentito su nessun'altra radio. Enrico Di Troia vi saluta, vi ringrazia per essere stati con noi e vi lascio con un ultimo brano dove non parlerò. Un brano che una sera, tornando a casa, mi sono goduto perché è comparso improvvisamente in macchina e ho detto: accidenti, che bello, adesso me lo metto a tutto volume. Ciao! Take, then put back good. If you steal, be right. best part of the blame. Wishing she could call him heartache, but it's not a boy's name. If you grow up to be just like him, just like me, you're fighting for exclusive rights, for honeymoons each sleepless night. In which case I'll call you appetite. Yes, I think I'll call you appetite. So if you take, then put back good. If you steal, be Robin Hood. If your eyes won't take all you see, then I think I'll name you after me. I think I'll call you appetite. So if you take, then put back good. If you steal, be Robin Hood. If your eyes are wanting all